as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui al Paine Rose, alla città Fucico 103.1, la trasmissione degli operai metalmeccanici di Bologna e non solo. Oggi parleremo della nostra puntata di congresso della CGIL. La settimana scorsa c'è stato il congresso della CGIL provinciale all'Arci San Lazzaro. Io ero lì sia come inviato del Paine Rose, ma soprattutto come delegato, visto che sono stato eletto per andare al congresso della CGIL, e mi sono ascoltato tanti interventi importanti, la relazione di Maurizio Lunghi. Sono riuscito a intervistare anche Landini, e dopo io e Alessandra Testa, giornalista del Corriere di Bologna, siamo andati ad intervistarlo. Volevamo parlare con lui, visto la relazione che aveva fatto, e c'erano tante cose importanti che lui ha detto e volevamo approfondire alcuni aspetti. Adesso sentiremo un bellissimo pezzo, sicuramente un pezzo musicale che ci ricorda tante cose. Sì, la storia siamo noi, la CGIL ha tanti difetti ma una storia ormai secolare, purtroppo, anche se ci sono stati tantissimi errori in questi anni, sono stati fatti anche dai gruppi dirigenti soprattutto. La CGIL è ancora un grande sindacato e al congresso di Bologna si è visto, erano tantissimi delegati, a Bologna sono 150.000 gli iscritti, ci sono sindacati che non hanno questi iscritti nemmeno a livello nazionale, eppure si sentono iper rappresentativi. E per questo ci ascoltiamo questo pezzo, la storia siamo noi, con tutti i pro e i contro. Poi sentiremo Maurizio Lunghi, intervistato da me e Alessandra Testa, e poi un altro bellissimo pezzo, e poi saranno le conclusioni. A dopo. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde del mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono, oh, tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerci a restare chiusi dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto e dà ragione, la storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. Na na na, na na na. E poi la gente, perché la gente che fa la storia quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri insieme a quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano. Allora, siamo qui con Maurizio Lunghi, segretario dimissionario della CGIL di Bologna, tanti anni, oggi qui al congresso. Ti abbiamo ascoltato, io sono anche delegato qui al congresso, ti abbiamo ascoltato, insomma, il racconto che ci hai fatto di tutta la tua storia, l'ultimo periodo, insomma, ci hai parlato di quello che è la tua storia qui in CGIL come segretario. Allora, ti volevamo chiedere, insomma, qui di raccontarci anche a noi, al Pane delle Rose, in radio, insomma, la tua esperienza CGIL, raccontaci un po', in sintesi, quello che tu hai vissuto, perché, insomma, sei dimissionario, ci sarà un altro segretario, sicuramente, visto che CGIL, in maniera democratica, dopo un po', non è che si può rimanere segretario a vita, questo è uno dei valori aggiunti che ha la CGIL, no? Tanti difetti, però, su questo nessuno ci può dire niente. Allora, raccontaci un po', Maurizio. Ma sì, io ovviamente, come ho avuto modo di dire anche nella relazione, ho fatto 105 mesi in pratica, perché poi con lo slittamento che c'è stato per le elezioni, eccetera, ho allungato il periodo che altrimenti sarebbe stato quello di 8 anni, quindi di 96 mesi normalmente. È stata una bella esperienza, con momenti molto diversi tra di loro nel corso del tempo, e devo dire che mi ha consentito anche di valutare la forza anche dell'organizzazione in situazioni complicate. Se pensiamo solo agli ultimi tempi, tutta questa combinazione tra prima la crisi finanziaria economica, poi è arrivata la pandemia sanitaria, poi si è aggiunta la guerra, e poi gli effetti della guerra, e adesso l'inflazione a due cifre, una cosa e l'altra, è chiaro ed evidente che siamo sempre stati sottoposti a continue situazioni di grandi difficoltà da affrontare. Devo dire che, almeno dal mio punto di vista, insomma, credo che la squadra abbia funzionato bene in questi anni. Sicuramente su alcune cose si poteva anche fare di più, ma questo con il senno di poi. È anche vero però che io penso che questa Camera del Lavoro abbia dato un contributo importante sul territorio, nel rapporto anche con il livello regionale. Noi abbiamo costruito protocolli, accordi, patti a vario titolo della città metropolitana, passando per gli appalti, arrivando anche all'applicazione di quelle che furono le norme di sicurezza in periodo Covid. Anche lì una situazione, diciamo, abbastanza inedita e difficile per chiunque da gestire. Devo dire che siamo stati molto aiutati dal fatto che siamo stati anche l'unico paese in Europa che ha ottenuto il blocco dei licenziamenti in quella fase lì, e questo ci ha consentito di concentrarci di più sui temi, appunto, della sicurezza, eccetera, e non correre dietro ai rischi di licenziamenti di massa che ci potevano essere in quella fase, perché ovviamente molte aziende che non avevano l'accesso agli ammortizzatori sociali avrebbero ricorso inevitabilmente ai licenziamenti. È stata quindi, da questo punto di vista, insomma, una fase di esperienze e di esperienze importanti. Abbiamo, come dire, anche consolidato un modello organizzativo significativo. Noi siamo presenti praticamente, abbiamo 75 sedi sull'area metropolitana, considerando che è fatta di 52 comuni, vuol dire che abbiamo, come dire, sia in città che anche in alcuni comuni di grandi dimensioni più di una sede. Questo ci dà la possibilità di essere un'organizzazione estremamente capillare, rispetto alla quale va, come dire, creata adesso una condizione di maggiore potenzialità, cioè queste sedi devono vivere, a mio giudizio, in maniera più intensa il rapporto con le comunità, e quindi diventare sedi aperte, sedi che diventino luoghi in cui si possono affrontare appunto i temi, le discussioni, i problemi, utilizzando sia la contrattazione aziendale da un lato, sia la contrattazione territoriale e sociale dall'altro, e quindi il rapporto con i livelli istituzionali e via discorrendo. Per cui, insomma, io credo che abbiamo un po' tutti gli strumenti per giocarcela la partita, e spero che nel momento in cui si insedierà un nuovo gruppo dirigente, e ne sono sicuro, insomma, ci saranno, come dire, la possibilità di dare il massimo della potenzialità possibile attraverso questi strumenti. L'ultima cosa, siamo anche all'interno di una fase complicata di mobilitazioni legate al rapporto con questo governo, che è un governo molto lontano da noi, che gioca su altri valori. Già la prima manovra finanziaria ce lo dice, loro hanno fatto già una scelta di campo precisa su cui indirizzare, diciamo così, gli investimenti, cosa che noi ovviamente non condividiamo. Noi insisteremo e facciamo bene, insomma, da questo punto di vista, a non mollare sul piano delle mobilitazioni, per riuscire a creare le condizioni anche di un movimento che ancora non è forte nel paese su questo terreno. Abbiamo un problema di parlare anche quel 40% e passa che non ha votato, perché questo è un tema che riguarda anche una grande confederazione come la nostra, non è un tema che riguardi solo la politica, e quindi dobbiamo creare anche le condizioni, appunto, per andare avanti anche su questo terreno e avere la capacità, per quanto possibile, anche di ricompattare il mondo sindacale confederale storico tradizionale in modo unitario. Oggi abbiamo perso per strada la CISL, ma io mi auguro che si creino le condizioni per poter di nuovo recuperare questo rapporto. Non sarà semplice, però diciamo che intanto andiamo avanti con le mobilitazioni come CGL, come UIL, e cerchiamo quindi di rispondere punto su punto, argomento su argomento, merito su merito, rispetto alle scelte che questo governo farà. E intervengo anch'io, Alessandra Testa, collaboratrice del Corriere di Bologna. Ti chiedevo in che stato di salute lasci la CGIL di Bologna, secondo te, e qual è la sfida maggiore che deve raccogliere chi verrà dopo di te? Perché, insomma, lo sappiamo, il mondo sindacale sta affrontando comunque a livello proprio globale una piccola crisi e ha una mancanza anche di rappresentatività forse fra i più giovani. Quindi come si possono attirare nuovi iscritti e quali sono secondo te le priorità in un mondo che a livello lavorativo si profila sempre in modo più precario e in cui pilastri come la sanità e la scuola sembrano non essere le priorità? Parlavi della manovra di governo. Ti chiedevo come attirare nuove leve e come creare una CGIL più vicina alle istanze delle nuove generazioni. Questo è un suggerimento per chi verrà dopo di te, ovviamente. Ma io penso che, appunto, la strumentazione l'abbiamo. L'analisi non ci manca, anzi forse ne abbiamo fatte fin troppo di analisi. Adesso è giunto il momento del fare, e cioè di mettere in campo una serie di azioni necessarie. Da un lato per allargare la nostra rappresentanza, perché è vero, è un fatto oggettivo ormai consolidato anche nel tempo, noi abbiamo dei settori in cui abbiamo difficoltà ad essere rappresentativi. Se penso a una parte del mondo della logistica, ma non solo, è chiaro che lì dobbiamo, come dire, fare un investimento forte. Così come abbiamo la necessità anche di invertire una tendenza degli ultimi tempi che non riguarda solo i pensionati, di cui noi siamo, come dire, fieri rappresentanti rispetto a tutte le questioni e le istanze che i pensionati portano, ma che riguarda il fatto di riuscire a recuperare anche una rappresentanza forte negli attivi, soprattutto in quelle figure impiegatizie tecniche, che probabilmente con l'arrivo anche delle nuove tecnologie, della digitalizzazione e quant'altro, sarà un altro terreno di grandi sfide. E poi dobbiamo stare molto attenti sotto il profilo contrattuale nella gestione degli impatti legati, per esempio, anche a questa questione del lavoro a distanza, perché il lavoro a distanza ci impone un modello sindacale inevitabilmente diverso da quello che abbiamo conosciuto fino adesso, perché rappresentare e gestire lavoratori che sono all'interno di un luogo di lavoro è una cosa, rappresentare e gestire lavoratori distribuiti sul territorio o addirittura all'interno delle proprie case diventa un altro aspetto su cui bisogna, come dire, lavorare. Per cui io penso che questi siano i temi che ci terranno più fortemente impegnato nell'immediato, insomma, come prime azioni da mettere in campo. La salute della Camera di Lavoro è buona, nel senso che comunque abbiamo i nostri 160.000 iscritti, dopo la Chiesa e il Comune siamo la terza istituzione dell'area metropolitana, quindi questo va detto, e di questo dobbiamo esserne fieri. È chiaro però che noi, siccome viviamo delle deleghe e degli iscritti che facciamo, noi abbiamo bisogno di tenere sempre, diciamo così, al centro delle nostre azioni contrattuali e sindacali la tutela, l'interesse individuale e collettivo e soprattutto, appunto, il livello del proselitismo della rappresentanza, che deve guardare verso i lavoratori attivi e verso i cittadini pensionati. Io invece avevo una domanda da farti, perché ho sentito Lepore ieri sinceramente parlare di una cosa che non sapevo, di un accordo per quanto riguarda l'interporto fatto con i sindacati, in cui è previsto che finalmente ci sia un presidio medico e ci sia i mezzi di trasporto che coprano la possibilità dei lavoratori di poter andare al lavoro da Bologna e anche da altri luoghi. Questo per me è una cosa molto importante, anche perché secondo me è un'emergenza l'Interporto, per tutti i problemi di legalità, di sicurezza che esistono lì. Questa è una cosa importante. Puoi parlarci un attimo, visto che avete firmato anche voi? Sì, sì, è un accordo recentissimo, io l'ho accennato anche in relazione, poi per ragione di tempo non sono entrato nel dettaglio, però è un accordo molto importante perché consente di dare gambe a quello che il sindaco da poco eletto disse e lanciò mesi fa, e cioè la cosiddetta logistica etica, che altro non è che il tentativo di mettere appunto mano a un settore dove per effetto di appalti, subappalti e di gestioni, diciamo così, abbastanza sui generis rispetto all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, sono create situazioni un po' tra virgolette da Bronx, ecco. E quindi lì abbiamo bisogno di riportare assolutamente legalità, tutela e applicazione corretta dei contratti. Per fare questo c'è bisogno ovviamente di saldare un'azione comune tra noi, il livello istituzionale, che in questo caso può essere rappresentato dall'Interporto, che comunque è una società a partecipazione pubblica, e ovviamente con l'insieme delle associazioni datoriali che operano in quel contesto, prevalentemente Confindustria e Commercio, ma non solo. E quindi, come dire, abbiamo cercato di dare subito le gambe alla logistica etica, e lì come appunto veniva detto, insomma, abbiamo da un lato un progetto che entro 18 mesi deve portare a una mobilità, cioè utilizzo casa lavoro dei mezzi pubblici, ottimizzata rispetto al fatto che di quella che c'è oggi, che è pressoché inesistente. Quindi un accordo con la Tiper, un accordo con tutto ciò che aiuta dal punto di vista della mobilità casa lavoro, ovviamente tenendo conto di abbonamenti, di costi, di tutto. Poi c'è un tema che riguarda le scuole materne, perché lì abbiamo avuto anche nella contrattazione non pochi problemi, perché c'è una grandissima quantità anche di personale femminile che opera all'interno dell'Interporto, soprattutto in settori, cito la IUX per citarne uno, ma ce ne sono anche molti altri. Quindi anche lì abbiamo bisogno di dare un servizio, che è un servizio che può essere dato sia all'interno dell'Interporto ma anche al territorio, quindi anche al comune di Bentivoglio e dintorni. E poi abbiamo bisogno di lavorare sulla sicurezza, perché incidenti mortali come quello del povero Iaia non devono più succedere, e per fare questo occorre formazione ed occorre quindi che ci sia un presidio forte dal punto di vista della sicurezza. E su questo abbiamo costruito nell'accordo un ragionamento di coordinamento che mette insieme i vari responsabili della sicurezza che sono già presenti nelle aziende più significative, ma che soprattutto questi abbiano la possibilità di interagire anche nelle altre aziende, cioè creando quindi un percorso di agibilità per poter accedere quindi a verificare e a controllare cosa succede. E soprattutto, questo è l'altro punto importante, una scuola di formazione, perché la logistica è sicuramente uno dei settori in grande espansione. Sappiamo che non stiamo parlando più dei classici tradizionali facchini, qui ormai abbiamo persone che vanno, come dire, anche a occuparsi di pezzi di filiere dei processi produttivi delle grandi imprese, quindi ci sono delle figure professionali anche significative. In più sappiamo che ci sarà anche un impatto tecnologico che arriverà su questo settore dalla robotizzazione non solo, e quindi c'è bisogno anche di lavorare sull'aspetto di carattere formativo. Questi sono i quattro punti cardine dell'accordo che abbiamo raggiunto. E questo miglioramento, diciamo così, a livello etico nell'area dell'Interporto potrà anche migliorare i rapporti, ci ricordiamo negli anni passati degli scontri anche abbastanza violenti con i sindacati di base, con i COBAS, che tra l'altro sono molto rappresentati tra i lavoratori della logistica. Volevo capire se questo poteva essere anche uno spunto per normalizzare un po' i rapporti sindacali. No, io mi auguro, perché noi, devo dire, abbiamo sempre tenuto aperta la possibilità di affrontare confronti anche tra sindacati che hanno rappresentanze ovviamente a vario titolo all'interno delle aree, in questo caso dell'Interporto, così come se parliamo dell'aeroporto. Così, io faccio presente che noi abbiamo in tantissimi settori, a partire da pubblico impiego, arrivando a per esempio le grandi municipalizzate, tipo la Tiper, ERA e non solo, insomma, abbiamo a che fare quotidianamente con diversi anche sindacati a livello autonomo. Abbiamo costruito insieme stagioni di contrattazione, rinnovi di piattaforme aziendali, iniziative e mobilitazioni anche comuni. Io penso che anche lì si dovrà aprire una stagione, mi auguro che questa stagione si apra il più presto possibile, in cui si possa trovarsi attorno a un tavolo a ragionare su questo tema, anche in una situazione, in un ambiente complicato e difficile qual è quello dell'Interporto e della logistica in generale, e quindi magari trovare lì anche dei punti in comune, perché se d'altronde tutti siamo sul pezzo per tutelare i lavoratori, per tutelare, diciamo così, e creare le condizioni migliori di lavoro possibili e facendo applicare i contratti, ecco, se siamo d'accordo su tutta questa serie di aspetti, beh, io penso che potremmo intanto partire da lì. Poi dopo da lì ovviamente si possono costruire, come abbiamo fatto negli altri casi che citavo, cioè pubblico impiego e municipalizzate, si possono costruire anche stagioni di carattere contrattuale comuni e unitari. Faccio una battuta, ci sarà un rinnovamento qua in CGIL, tu non sarai più il segretario, arriverà un altro segretario. Oggi abbiamo Landini, molto probabilmente Landini dirà la sua oggi, ma non solamente parlerà, ma agirà anche. Ci aspettiamo un rinnovamento, un cambio di testimone dal tuo punto di vista? Ma io penso che ci sia un rinnovamento, cioè nel senso che io faccio parte ormai di una generazione prossima alla pensione, credo che sia giusto a un certo punto che ci sia anche un rinnovamento che tenga conto anche degli aspetti dell'età, perché poi l'età vuol dire anche un modo diverso di vedere le cose, di un linguaggio anche magari diverso, una cultura, diciamo, che tiene conto più dei giorni d'oggi. Insomma, io ve lo vedo come un rinnovamento e penso che la proposta sia una proposta che vada in quella direzione lì. È chiaro che, come dire, se ci fossimo trovati in una situazione in cui il mondo esterno, diciamo così, fosse meno in sfiga, come ho detto, in relazione, come si dice a Bologna, rispetto a quello che c'è oggi, questo avrebbe aiutato per chi poi si accinge a fare questo lavoro a trovarsi in una condizione migliore. Però è anche vero, insomma, che le sfide aiutano anche a crescere e aiutano quindi anche come dire, a trovare poi delle soluzioni che credo saranno individuate, insomma. Quindi io vedo questa cosa e Landini spingerà in questa direzione per un rinnovamento. Dunque, largo ai giovani. Dunque, largo ai giovani e ai pensionati, è giusto che si occupino di pensionati. Ok. Grazie mille e buona vita, come si dice. Grazie a voi e buon lavoro a tutti e buona vita a tutti. Ok, ciao Maurizio. Ciao. Ci vediamo a Caldera. Sì, ci vediamo a Caldera. Il gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso fiore in petto ci è fiorito, una fede che è nata in cuore. L'anarchia del mansiparnos, de toda l'exploitación, il comunismo libertario. Come, comrades, rally, and the last fight let us face. The internationality unites the human race. So come, comrades, rally, and the last fight let us face. The internationality. Cause those who level them vincerà. Allora, avete ascoltato l'intervista a Maurizio Lunghi, come vi avevo annunciato all'inizio, molto interessante, tantissimi temi trattati. Adesso parleremo anche di un paio di temi molto interessanti, dirò anche la mia. Però abbiamo ascoltato adesso l'internazionale della banda popolare dell'Emilia Rossa, del compagno Paolo Brini, che la canta insieme a un'altra compagna. E vi dico che c'è stato un piccolo siparietto, non so se avete letto i giornali in questi giorni, sul fatto che io non ero presente perché non sono stato eletto come nel direttivo, dunque non ho votato il nuovo segretario. A proposito, Michele Bulgarelli, il mio ex segretario della FIOM, a questo punto è diventato segretario della CGIL. Il rinnovamento c'è stato quando abbiamo intervistato Maurizio Lunghi, era prima che si votasse Bulgarelli, addirittura c'erano delle voci, ma non ancora era sicuro al 100%. Ho fatto una provocazione a Maurizio Lunghi dicendo insomma che Landini avrebbe fatto. Effettivamente Landini sta landinizzando un po' tutta la CGIL, quel dove riesce a farlo. È un uomo di Landini, Bulgarelli della FIOM. Ora, il siparietto è sulla questione della canzone dopo la sua elezione. Hai letto sul giornale che Fratelli d'Italia ha chiesto la dimissione di Landini perché il l'inno dell'Unione Sovietica, che è stato scambiato da Fratelli d'Italia come l'inno della Russia. Io intanto dico che sono due cose diverse, okay? Anche se la musica è quasi la stessa. Però in realtà è stato un errore ed è la testimonianza che io ero in fila per votare il direttivo e ero come con Bulgarelli, ho chiesto, manco a farla apposta, gli ho detto cosa metti, l'internazionale come in FIOM, quando sei stato eletto in FIOM? Oppure Bella Ciao? Lui mi fa no, io ho pensato l'internazionale, dunque. La buona fede di Michele Bulgarelli c'è tutta, cioè lui aveva chiesto di mettere l'internazionale, che è stato un errore palese di chi era la regia del mixer in quel momento, che l'avrà preso da YouTube e si sarà sbagliato mettendo l'inno dell'Unione Sovietica. Ecco, poi io ero proprio presente prima che accadesse questo e gliel'ho anche chiesto, no? Ho detto ma che musica metti? E lui mi ha detto l'internazionale, io gli avevo detto Bella Ciao, vabbè, infatti mi ha fatto anche una battuta così su WhatsApp su questo. E però insomma è una cosa importante e la CGIL diciamo potrebbe assumere potrebbe cambiare e Bulgarelli ha delle posizioni molto molto innovative su tanti punti. Poi con lui non sono d'accordo su un sacco di cose. Chiaramente ne abbiamo anche discusso in trasmissioni più puntate, però chiaramente in CGIL, che era a Bologna soprattutto un po' conservatrice, su molti aspetti, Bulgarelli ha delle idee, è giovane, ha delle idee nuove. Ora, importante però è che anche Bulgarelli nella sua relazione poi finale ha parlato di questa questione del polo logistico, dell'etica, logistica dell'etica, è importante questo. Io spero di fare un'intervista e intervistare anche i sindacati di base su questa questione. So che ci sono dei problemi perché questo accordo, insomma tutti siamo d'accordo che una logistica deve essere risolta, una serie di problemi. Abbiamo intervistato, vi ricordate, spesso anche Sicobas e l'USB, in cui abbiamo parlato degli enormi problemi che esistono nella logistica, non solo a Bologna, per non parlare di Piacenza e tanti altri tipi di logistici che esistono in Emilia Romagna e non solo. Però questi accordi devono portare dei risultati, altrimenti è tutta fuffa. Adesso speriamo che di fare altre puntate, di parlare di questo aspetto, che per noi come metalmeccanici è fondamentale, anche se uno diceva perché voi metalmeccanici vi occupate di logistica, perché è una parte della nostra filiera ed è importante per noi affrontarla. Sono nostri colleghi spesso che lavorano con noi nel settore della logistica, una volta prima che inventassero tutte queste forme, no? Di esternalizzazioni è tutto all'interno. Questo è anche un modo, l'appalto, il subappalto, per abbassare i costi del denaro. Ora l'affronteremo più in là. Noi facciamo i nostri auguri al nuovo segretario della CGIL, perché come uno vuole pensare è importante questa elezione. Il congresso di Bologna è stato anche interessante, sono riuscito a intervistare anche Landini, adesso vedremo se fare una puntata perché ha detto cose molto molto interessanti, soprattutto sulla sicurezza sul lavoro e non solo. Adesso vi saluto, spero che vi sia piaciuta la puntata e ci sentiamo martedì prossimo. Ciao!